GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Sarà pure solo calcio d'estate, ma intanto è il Milan ad aggiudicarsi il trofeo team contro le altre grandi, Inter e Juventus. Tra i rossoneri che vincono le due sfide con bianconeri e nerazzurri, ai rigori protagonista Seedorf, in rete due volte contro la Juventus, ma l'olandese respinge il confronto col neoarrivato Ronaldinho. Questo è un più forse divertimento che il mio, io sono qui. Sono tutti colleghi miei, pensano agli obiettivi che abbiamo per quest'anno, questo mio settimo anno con il Milan e abbiamo un campionato importante avanti e non ho tempo di sprecare tempo, energia, cose che non servono. Inter in ritardo e con qualche problema di infortuni a Cambiasso e Materazzi è sconfitta anche dalla Juventus in rete con Iaquinta, ma Ranieri guarda già avanti. Io quello che vado cercando è dare minuti a tutti, perché quello che conta è essere pronti per quello che si può essere a metà agosto, quando abbiamo i preliminari di Champions League, e lì conterà veramente il risultato. Con Mourinho ho un ottimo rapporto dai tempi del Chelsea, mi ha fatto gli auguri per i preliminari di Champions League. Oggi in campo anche la Fiorentina contro una grande d'Europa, il Barcellona, l'allenatore Viola Prandelli. Noi abbiamo, oltre la voglia di migliorare come condizione, anche la curiosità di vedere da vicino una grandissima squadra. Il nostro atteggiamento sarà un atteggiamento di una squadra che vuole ricercare una condizione. Non siamo da scudetto, questo lo possiamo dire a caratteri cubitali, però siamo una squadra che può dar fastidio a molti, sempre ai vertici della classifica. E ora gli strascichi del caso di doping che ha coinvolto la campionessa mondiale di ciclismo femminile Marta Bastianelli. Sentiamo l'azzurra ieri a Sky TG24. È stata una semplicissima, non so, forse un errore, non è assolutamente un fatto di doping. No. Mi sono accertata che i prodotti che metteva il farmacista all'interno di questo prodotto fossero prodotti esclusivamente leciti, che non fanno parte delle sostanze vietate per, diciamo appunto, per le sostanze del, insomma, 2008. Oggi intanto si presenterà la procura antidoping del CONI Riccardo Riccò, positivo nel Tour de France appena concluso. La pagina olimpica si apre con la notizia della riammissione dell'Iraq ai giochi di Pechino. A deciderlo il CIO, che ha ricevuto garanzie sulla non interferenza del governo iracheno nella gestione del Comitato Olimpico Nazionale. Per l'atletica, ennesimo record del mondo, è il 23esimo della russa Yelena Isinbayeva nel salto con l'asta femminile. A Monte Carlo la Isinbayeva ha superato quota 5 metri e 4 centimetri. Nei 100 maschili, vittoria del giamaicano Asafa Powell in 9 secondi 82. E alla scoperta della spedizione azzurra verso Pechino, riflettori puntati sul pugilato. Nei super massimi, favorito l'iridato Roberto Cammarelle, bronzo ad Atene. Adesso abbiamo il compito di mantenere le attese per Pechino, anche per io me l'ero già prefissato dopo Atene, perché quel bronzo che mi hanno assegnato mi stava tanto stretto e che ho deciso di rimanere dilettante per puntare Pechino, ma stavolta per vincerla. Varati ieri dalla Lega Basket i calendari della Serie A, che scatterà domenica 5 ottobre. Nella prima giornata i campioni d'Italia di Siena affronteranno la Benetton Treviso, derby del sud tra Roma e Napoli, mentre Milano andrà in trasferta a Teramo. E chiudiamo con la vela, nuova svolta nella vicenda legale della Coppa America. La Corte d'Appello dello Stato di New York ha riassegnato agli spagnoli di desafio il ruolo di sfidanti ufficiali. Esclusi quindi da questo ruolo gli statunitensi di BMW Oracle, ora pronti a fare ricorso. Se le cose rimanessero come deciso dalla Corte, verrebbe meno la già decisa sfida 2 tra Aling e BMW Oracle nel 2009 e potrebbe così riaprirsi la possibilità di una Coppa con più sfidanti. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.